Vieni, prendimi, amore, fermiamoci, son qui insieme a te, accanto a questo mare che gemita. Sulla riviera insieme con te, tra gli scogli a fare all'amore, la tua ombra sopra la mia, su di noi il fuoco del sole, scende il tramonto, eccolo là, sta baciando l'onda del mare, questa sera stretta a te, senza funi mi voglio legare, sulla riviera insieme con te, tra gli scogli a fare all'amore, sulla sabbia canta noi due, sta nascendo un piccolo fiore. Volano, cantano nel cielo le rondini che sfiorano così la nostra barca vuota che dondola. Sulla riviera insieme con te, tra gli scogli a fare all'amore, la tua ombra sopra la mia, su di noi il fuoco del sole, scende il tramonto, eccolo là, sta baciando l'onda del mare, questa sera stretta a te, senza funi mi voglio legare, sulla riviera insieme con te, tra gli scogli a fare all'amore, sulla sabbia cala noi due.